America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24. Da Lisbona, al seguito del presidente Obama, qui al vertice NATO, Mario Platero. Siamo di nuovo in movimento, il viaggio asiatico sembra ormai lontanissimo. Sul campo sfide militari, Barack Obama si presenta al vertice NATO con un documento importante, prevede una cessazione delle attività militari dirette degli alleati per il 2014. Da qui al 2011 avremo il surge, e quindi una escalation delle attività militari. In questi giorni arriveranno gli ultimi contingenti dei rinforzi americani in Afghanistan e in parallelo ci saranno anche dei negoziati con i talebani. Di questo si parlerà oggi al vertice NATO, oggi e domani. Ci sarà anche Dmitry Medvedev, presidente russo, importante che ci sia una sua adesione. Si parlerà anche di riduzione delle armi convenzionali. Con me ai microfoni di America 24 Gianandrea Gaiani, direttore di analisi difesa, magazine web di questioni militari e strategiche, e editorialista e collaboratore del Sole 24 Ore. Buongiorno Gianandrea. Buongiorno, buongiorno a te e agli ascoltatori. Qual è la tua impressione su questo documento? Intanto che Obama abbia spostato la data chiave per il ritiro dal 2011, appunto l'inizio del progressivo ritiro, al 2014, evidenziando soprattutto la data definitiva nella quale si spera di aver risolto i problemi di sicurezza dell'Afghanistan. Poi si parla di cominciare già dall'anno prossimo a consegnare alcune province, le più tranquille, al controllo della sicurezza delle forze afghane, e poi c'è questa speranza, bisogna chiamarla così, di riuscire a portare i talebani al tavolo del negoziato. E anche negli ultimi giorni il Mullah Omar ha fatto sapere che, al di là delle chiacchiere, la sua intenzione, quella dei talebani, è quella di continuare appunto a combattere le forze alleate e le forze di Kabul. Ecco, al di là della parola fine per la guerra, fine per la missione NATO, la prima grande missione fuori dal territorio europeo, fine soprattutto delle due guerre che hanno seguito l'attacco dell'11 settembre, e si dice che però avremo davanti a noi mesi difficili. Secondo te ci saranno più morti di quelli che abbiamo visto purtroppo in passato per via della grande offensiva? Più truppe sul terreno vuol dire maggiore capacità di ingaggiare i talebani anche nelle zone dove prima la carenza di truppe impediva di andare fisicamente a combattere, quindi più combattimenti significa anche più caduti. Nel momento in cui le forze alleate cercano di allargare il più possibile l'area sotto il loro controllo per cederla poi, questo è l'intento, al controllo delle forze di Kabul. Probabilmente si affronterà anche la questione della riduzione delle armi convenzionali. Sappiamo che Obama ha promesso la firma del trattato, o meglio la ratifica del trattato START da parte del Senato prima della fine dell'anno. Che tipo di riduzioni ci saranno e soprattutto che tipo di impatto economico ci sarà secondo te in alcune delle grandi basi europee, per esempio italiane? Le armi convenzionali sono regolamentate dal trattato CFE del 1990, e quindi all'indomani della guerra fredda si sono stabiliti dei livelli di forze per ogni paese, di truppe, di carri armati, di aeroplani, di elicotteri, che non sono più quelle oggi realmente presenti, perché comunque la fine della guerra fredda ha determinato un disarmo in molti paesi, e negli ultimi mesi anche la crisi finanziaria ha determinato tagli ai bilanci della difesa molto forti nei paesi occidentali della NATO, ma anche in altri paesi e anche nella stessa Russia. Quindi un accordo che vada a verificare e a ristabilire dei numeri nuovi sulle armi convenzionali della Russia, dei paesi della NATO, è un accordo che avrà un forte impatto politico per Obama e anche per Medvedev, ma non cambia di fatto una realtà, e cioè che l'Europa sta disarmando. Gli americani puntano anch'essi a un vantaggio economico, a poter ridurre ulteriormente la presenza di forze militari in Europa, oggi comunque ancora consistente, siamo intorno ai circa 70.000 militari, e stabilire cosa potranno ritirare, beh, questo poi lo si valuterà successivamente, anche perché oggi l'Europa, le basi americane in Europa sono utilizzate soprattutto come ponte per poter schierare le forze americane in Iraq, in Afghanistan, in Medio Oriente. Abbiamo parlato di NATO dunque, ma domani ci sarà anche un vertice europeo. Barack Obama, prima di rientrare negli Stati Uniti, avrà un incontro con i leader dell'Unione Europea. Abbiamo ai microfoni di America 24 Carlo Bastasin, editorialista inviato del Sole 24 Ore. Buongiorno Carlo. Buongiorno Mario. Un vertice importante oppure una coda per dare un contentino agli europei da parte americana? Tutte e due le cose. È importante nel senso che Europa e Stati Uniti continuano a condividere problemi comuni e potrebbero condividere risposte comuni che sarebbero urgenti come raramente in passato, sarebbe urgente che riuscissero a trovare una risposta comune ai problemi di economia debole che condividono e anche ai problemi di riforma della governance globale che coinvolgono entrambi, è però anche un vertice che rischia di non trasmettere questo senso di urgenza, di importanza, ma di risultare ancora una volta una sorta di coda rispetto agli altri impegni del presidente americano. Ecco, impegni che, devo dirti, essendo stato al suo seguito in Asia, mi sono reso conto che sono concentrati soprattutto sul fronte asiatico. Perché, secondo te, c'è questo problema transatlantico fra Europa e Stati Uniti? C'è un meccanismo, un aspetto diciamo quasi meccanico della crisi americana che coinvolge direttamente più l'Asia e le economie emergenti di quelle europee e che è naturalmente gli squilibri interni dell'economia americana, è un deficit commerciale, un deficit delle partite correnti e i problemi di crescita stessi dell'economia americana trovano la perfetta compensazione nell'andamento delle economie asiatiche. Riuscire quindi a trovare una comunicazione diretta tra queste due aree del pianeta sarebbe la soluzione più semplice e più logica. Il problema è che per farlo è necessario trovare anche un equilibrio politico e è molto più difficile trovarlo con economie gestiti in modo tanto diverso da quella americana e sistemi politici spesso autocratici, lontani dai meccanismi decisionali democratici che sono invece comuni nel settore transatlantico. L'euro è sotto pressione, l'Europa è molto irritata nei confronti degli Stati Uniti per la manovra QE2. Qualcuno mi ha detto che se l'America non farà marcia indietro ci sarà un rischio di rottura, ci saranno anche rischi di protezionismo da parte europea. Ecco, tu pensi che questo sia un rischio possibile? Francamente non vedo questo genere di cose se non con barriere non ufficiali. Ci sono forme tariffarie che sono quasi invisibili e hanno qualche efficacia, ma dubito che siamo a questo livello. Il vertice che si terrà domani affronta il problema del protezionismo nell'area transatlantica, va detto che finora non ce n'è stata traccia e quindi tendo a non vederla come minaccia, ma ci si aspetta un forte impegno antiprotezionismo, soprattutto su quelle che vengono chiamate le tecnologie emergenti. Bene, grazie a Carlo Bastasin, speriamo che queste due ore di vertice siano straordinariamente produttive. Ed eccoci alla canzone del giorno. A gennaio uscirà un nuovo album dei Decemberists, The King is Dead, e la band ha annunciato che subito dopo partirà per un tour 16 date intorno agli Stati Uniti. Dunque dei Decemberists ascoltiamo The Engine Driver. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going! America 24.